Purtroppo in cucina me la cavo malissimo, nel senso che so fare il caffè, poi so fare la pasta in bianco e poi basta. Io fino a Londra la mia unica priorità era il nuoto. Perché si parla di Mario che va a escort, Mario che ha le macchine belle, Mario che manda a cagare chiunque. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantaneda in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Oggi ci sono i gol che vanno in cielo oltre una Rai che sta perdendo pezzi e colpi. C'è l'amore sportivo, l'abbiamo sentito anche nella nostra sigla, che sboccia di nuovo a quanto pare tra Federica Delusa e il maestro esigente Lucas. Poi c'è Zeman che cerca di farsi nuovi nemici a quanto pare. Non ha parlato benissimo di Abete ieri, definendolo nemico del calcio, poi ha tentato di correggere il tiro. Settimana movimentata intorno all'allenatore della Roma. C'è anche un weekend di moto mondiale che si annuncia un po' triste, comunque nel ricordo di Simoncelli. Parleremo di tutto questo e di molto altro. Se volete, 800 24 00 24, siete sempre convocati, ma partiamo dai gol che vanno in cielo. Pronto Bubba? Ecco. Direi che a commentare la cronaca che tu direi hai espresso fedelmente Paolo Valenti c'è solo una battuta popolare, se me la passi. È peggio la paura del castigo di Dio. Pronto Pino Patti? Sì, eccomi. Ecco, a te la linea. Doccia fredda a Torino. Dopo il La Perugia, anche il Larero Si Vicenza è riuscito a espugnare il comunale di Torino. Chi ama l'amore, i sogni di gloria. Chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria. Benissimo. E adesso passiamo a Ascoli Brescia 0-0, come sono andate le cose, come sentivano che andavano le cose sugli altri campi, un punto per uno fa bene a tutti e due, vero? Sì, difatti però sembrava Torino carino, sì, lo riconoscerete. Infatti sembrava all'inizio che un punto per uno potesse bastare ad entrambe le squadre. E sia l'Ascoli che il Brescia hanno giocato soprattutto per non aggredirsi. Linea a Gianni Vasino per questa partita. Sì, finalmente l'Atalanta, come hai detto tu, è riuscita a vincere. Forse però il confronto col Brescia non era l'occasione migliore, vero Sposini? Come stimoli, diciamo. No, anche perché il Perugia veniva da uno 0-5 di domenica scorsa a Roma, ha fatto 0-0 oggi, può sembrare un risultato buono al confronto. Invece è stato il solito brutto ennesimo 0-0. Qui collegate con l'Olimpico, sembravano che i tempi cupi per la Roma fossero finiti, ecco che invece è arrivata cosciente, secca la sconfitta ad opera del Catanzaro. Un Catanzaro naturalmente che è apparso un mostro in questo Olimpico, eroe della giornata è stato Palanca. Saluto e ringrazio Antonio Di Pollina, critico di Repubblica e nostro amico. Ciao Dip. Ciao, eccoci, buongiorno. Allora, i gol che vanno in cielo un quarto d'ora prima rispetto al 90° minuto. Ma cambierà questo quarto d'ora, al di là dello schiaffo alla Rai, può cambiare questo quarto d'ora di differenza il numero degli adepti del santuario di 90° minuto? Ma secondo le previsioni no, nel senso che è più una cosa simbolica che altro. Il punto è, lo avete sottolineato voi, 90° minuto nella vulgata popolare per noi, per chiunque, in realtà è quello lì, è quello di Paolo Valenti e di loro, che è una cosa che non c'è più da decenni, ma se ci toccano comunque quella cosa, che adesso è un'altra cosa, infinitamente sì, più moderna, ma comunque se ci toccano 90°, a noi sembra che ci tocchino quello di allora, e quello a cui siamo straaffezionati. Quindi dal punto di vista simbolico, che il 90° minuto non sia più il posto in chiaro della TV dove si vedono per la prima volta i gol, comunque lo prendiamo come se ci avessero fatto un'offesa alle sì. sorelle o a qualcosa del genere. Tecnicamente non, ovviamente non cambia granché, è anche vero, come ha detto, come hanno detto in Rai, che in questo modo Sky si fa una controprogrammazione da sola in un certo senso, però questo è non è una rivoluzione, ma dal punto di vista simbolico dell'immagine, e sappiamo quanto contano oggi queste certo. cose, sono botte al morale, per esempio della Rai e di Rai Sport. Senti, ti do una notizia che è appena uscita, non so se la sai già. Stadio Sprint torna in onda domenica con il consueto come di consueto al timone Enrico Variale, che dopo l'acquisto dei diritti in Chiaro da parte di Cielo allungherà la sua trasmissione di un quarto d'ora, cioè fino alle fatidiche 18:15. Il nuovo volto sarà quello, pensa un po', di Don Alessio Albertini, fratello di Demetrio. Bene. No, che la Rai volesse rispondere andando a coprire quello spazio dove finora peraltro c'era il telegiornale, se non vado errato, quindi tra Variale e Franco Lauro, tanto per intenderci, lo avevano annunciato abbastanza subito, in una sorta di guerricciola a questo punto che può scatenarsi su cose davvero abbastanza minime, ma teniamo conto che poi in un contesto come quello della TV in Chiaro, dove si misurano le virgole degli ascolti, gli zero virgola delle percentuali su chi fa di più e chi fa di meno, i ragazzi, come dire, sono molto sensibili a sì. questo, e quindi hanno già messo in piedi questa cosa. Sul fratello di Albertini francamente non lo sapevo, lo scopro ora e vediamo Don che Alessio. Cos'è. Vediamo probabilmente che cos'è. È materiale in più per i molti, e qualcuno è anche tra i presenti che alla domenica si divertono un po' a trarre spunti per scrivere sì. rubriche lunedì sui quotidiani. Tutti convocati. E abbiamo convocato Antonio Di Polena, che invece su Repubblica di oggi scrive: la Rai degli sport perduti, prossima tappa la Formula 1, dalle moto al calcio, la lenta ritirata del servizio pubblico. Antonio. Sì, spiace, perché è una cosa abbastanza pesante, e soprattutto poi succedono, come è successo alle recenti Olimpiadi, cosa è successo? Che gli ascolti ovviamente li ha fatti la Rai, perché era in Chiaro, perché era disponibile a tutto, e che la capacità di sintesi, cioè nel poco si riusciva a capire un po' di più quello che succedeva rispetto all'offerta pletorica di Sky, quindi un ruolo ci sarebbe e bisognerebbe salvaguardarlo. Qual è il problema? È che in tutto il mondo da anni i diritti sportivi costano una tombola, che una Rai che dove peraltro è arrivato un direttore generale che a occhio e croce vuole mettere mano ai conti in maniera feroce, così il gioco non regge più. Poi possiamo dilungarci quanto vogliamo su come spende i soldi davvero la Rai, su a chi dà soldi e a chi ne toglie, ma questo, come si dice, è un altro discorso. Bisognerebbe appunto salvaguardare molto di più quello che è il ruolo della Rai, anche storico, perché la gente è parecchio abituata a vedere sport discreto sulla Rai, sì. toglierlo in questo modo. La Formula 1 sarà una botta vera, soprattutto se avremo un Alonso e una Ferrari sempre più in palla anche l'anno prossimo. Beh, sono chiaro. Metà dei gran premi che se ne vanno. Ma è chiaro. Un'ultima cosa, Antonio, questa storia di, cioè, i telespettatori di Sky dicono: oh, ma quando è che ci comprate i diritti della Liga? Pare che ci siano grosse questioni di soldi e che quelli di Sky, Liga e Bundesliga, non ci sentano. Anche questo è un bel colpo, al contrario. Sì, lo è, soprattutto perché sulla Bundesliga direi che ormai il discorso è assolutamente chiuso. A Sky dicono gli ascolti erano davvero infinitesimali e non sì. interessava a nessuno. Vabbè, facciamo passare quello. Cosa dicono invece sulla Liga? Che i soldi richiesti sono un'enormità rispetto a un campionato che, dicono loro, alla fine si riduce, vogliamo, non diciamo a due classicos all'anno, ma a due squadre in fondo da seguire e magari non sempre, e il gioco neanche a loro vale la candela. Certo che per una TV a pagamento che negli anni ha abituato il suo pubblico ad avere puntualità assoluta sul campionato spagnolo, è chiaro. È una botta. Mi dicono che la situazione è sbloccabile, magari non subito, non ancora per questa domenica, ma alla fine, tirando la corda, a un certo punto questa corda in qualche modo andrà da una parte, però il discorso è molto più complicato e riguarda anche il fatto che neanche Sky ha dei conti eccezionali, sì, dal punto di vista economico. Non fa piacere sicuramente, però, quando sei abituato a offrire certo, a dare per scontato che hai quei campionati. Certo, hai qualcosa e te lo tolgono e tu ti arrabbi un pelino. Essendo che hai pagato e pagando, esatto, quella cifra negli scorsi anni avevi quello, defraudato, non usiamo la parola derubato. Grazie Dip, buon viaggio. Ciao, grazie ad Antonio Di Pollina. Mi dispiace molto che sia accaduto, soprattutto il fatto che Filippo non abbia parlato con me, abbia parlato solo a grandi linee con la federazione, e soprattutto non averlo visto neanche dopo la staffetta mista. Ci siamo incrociati in albergo, ma giusto ci siamo salutati e fine, non abbiamo parlato, non mi ha parlato di niente. Come farò a stare a galla non so, torno sui miei passi, sulla vecchia strada. Lei c'ha il tempo per prendere una medaglia, nelle braccia ha il tempo per prendere la medaglia, ce l'aveva anche nei 400. Deve riuscire a tirarlo fuori e nel momento giusto, che è oggi. No, perché si vede che di no, perché altrimenti l'avrei fatto. Quando mi muovevo, oggi me lo dici tu, chi si scandalizza più? Io non è che mi fermo completamente il prossimo anno, è che ho bisogno veramente anche per non continuare questo adattamento all'allenamento che in gara non mi porta niente, per ricaricare le pile. Gareggerò comunque ugualmente i campionati italiani, così a livello internazionale cercherò di qualificarmi solo con le staffette. Sulla vecchia strada. E così passiamo subito all'argomento seguente, poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori, perché sono convocati e sono molti. 800 24 00 24, numero verde, ma tra i convocati c'è anche Max Rosolino. Ciao Max. Buon pomeriggio ragazzi. Buon pomeriggio a te. Dopo i propositi di una prossima stagione più light, Federica torna dal maestro più duro, cioè Lucas, l'ultimo che l'aveva guidata sul tetto del mondo. Come la leggi questa? Ma bisogna vedere se viene appunto convalidato questa opportunità, questa scelta, perché ricordiamo che Lucas è uno tosto, piuttosto di Federica Pellegrini, forse questo ha fatto un po' inclinare i rapporti poco più di un anno fa, dopo un grandissimo successo di Shanghai. A mio avviso, quando uno ha un anno dalle Olimpiadi va così forte, è un po' azzardato cambiare. Lei ci ha provato, tante volte le è andata bene, perché vuol dire la stoffa della campionessa ce l'ha indipendentemente poi dall'allenatore, e invece ritornare forse sulla retta via è una dimostrazione di maturità, perché vuol dire che il famoso light, l'anno, sì, light, io non l'ho mai apprezzato, sempre mi sono permesso di dire che non, nel nuoto purtroppo l'anno light non lo puoi fare, perché non c'è una squadra che gioca al posto tuo, certo, o vai in attacco o te ne stai in panchina. E quindi credo che la scelta sia interessante. Dalle Olimpiadi comunque è indubbio che il nuoto italiano sia tornato con le ossa rotte, anche se qualche arcobaleno in giro lo vediamo, qualche giovane sta emergendo, però non possiamo dimenticare questa Olimpiade storta. Assolutamente no, vuoi dire, hai detto tu, le ossa rotte, siamo riusciti belli, belli spaccati, come si dice, però la verità, anche se sai, molti ascoltatori hanno cercato di trovare delle giustificazioni, anche no, Federica è arrivata quarta, è arrivata quinta, allora cosa c'è, tutto sommato, no, allora, quinta all'Olimpiade, insomma io non sono così buonista. No, ma neanche io sono, non sono una iena, perché non è il mio ruolo, non devo esserlo, però io sono un ragazzo, vuoi dire, io ho vinto le Olimpiadi, faccio ancora lo sportivo e mi piace comunque elogiare chi lo merita. Federica è una campionessa che non ha bisogno di presentazione, va bene? All'Olimpiadi lei ha pagato lo scotto di aver voluto cambiare per l'ennesima volta a 6 mesi prima delle Olimpiadi, va bene? Intraprendendo comunque un entourage di allenamenti che forse, anzi, questo a mio avviso, non erano a sua immagine e somiglianza. Non vuol dire che il tecnico non fosse bravo, però io voglio dire, c'è il tecnico specializzato nella velocità e lei invece con Lucas aveva fatto un altro modo, un altro lavoro assolutamente differente da quello che ha fatto quest'anno. Con l'evoluzione dell'atleta è pur vero che si può sbagliare di meno, lei è una ragazzina ancora, però sì, dire, ha alle spalle 10 anni di carriera, vuol dire che a 20 anni fare un piccolo errore tecnico lo paghi di meno, a 24 lo paghi di più, poi arriva all'età di Rosolino che lo paghi con tutto quello che fai. Perciò a me piace che abbia deciso veramente di fare il passetto indietro. Il light non porta niente, non porta gratificazione. Quando pensi di comprare una cosa light al supermercato già ti viene la tristezza, va bene? E anzi, lei deve, a mio avviso, proprio mettersi lì a macinare, magari non adesso, tra 2 settimane, 3 settimane, e puntare direttamente ai mondiali. Senti Max, per chiudere, adesso ci dobbiamo prendere tutti l'ombrello e la cuffia forse in questo caso, perché stiamo per essere sommersi da 117 partite di calcio in 25 giorni, quante ne guarderai? Io manco una, ragazzi. Manco una? Manco, ma non per niente, perché voglio dire, io la sera fino alle 9 cerco di gustarmi la mia pupetta e dopodiché cerco di gustarmi per tutta la notte quella che sta arrivando. Perciò diciamo, ho altri squadre a cui pensare in questo momento. Hai un'altra squadra, non te ne puoi importare di meno. Ti è simpatico, no, Zeman, però? Sì, non mi dispiace, il fatto carismatico, sai, prima parlavamo di Federica Pellegrini, di questo Lucas che comunque a Pirl non sembra ispirare fiducia, e Zeman è invece una persona super carismatica, dove è andato ha fatto parlare di sé in maniera positiva, poi può piacere o non può piacere, però voglio dire, è comunque un valore aggiunto, non è una pecca. Grazie Max! Grazie a voi ragazzi. Divertiti con la squadra nuova. Ciao, grazie a Max Rosolino. 800 24 00 24 è il numero verde. Adesso sarebbe ora di cominciare a parlare con qualche ascoltatore. Li abbiamo un po' trascurati fin qui, ma insomma avevamo grandi argomenti cui pensare. A proposito di Zeman, poi vi faccio sentire anche qualcosa di divertente, molto divertente, che ha fatto Radio Rai sulla scorta del casino che abbiamo innescato l'altro giorno con quelle dichiarazioni di Vialli che sono state riprese un po' da tutti. Messaggi SMS 349-238-6666, poi c'è Twitter, ovviamente sempre attivo e operativo. Mimmo Agrigento, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti intanto per la trasmissione. Grazie. Sì, volevo parlare dell'esternazione di Zeman, che mi sembra monotone però, sempre contro una squadra però. Ieri ha cambiato un po' obiettivo, Abete. Sì, ha fatto Abete, però sempre, io non ho mai visto un pensiero di Zeman sugli illeciti dell'Inter, per scritti, sulle passapartopoli, insomma sempre la Juve, il suo obiettivo è quello. Si è fatto, sì, butta un po' i sassi sempre nello stesso stagno. L'allenatore è bravo perché le sue squadre giocano bene, però sempre ha quello pensiero fisso, diciamo. Per fortuna che c'è comunque, per fortuna che c'è, almeno qualcuno che esce dal coro ogni tanto dice cose su cui si può dibattere, compreso l'attacco di Era d'Abete, lui è il nemico del calcio, poi la successiva precisazione, quindi lunga vita a Zeman e ai suoi nemici. Paolo da Roma. Buonasera, volevo soltanto parlare un attimo del paragone tra le Olimpiadi della Rai e quelle di Sky. Io sono abbonato Sky e ho seguito però quasi esclusivamente la Rai, perché forse sarà l'età, ma è tutta un'altra competenza, anche probabilmente anche le voci dei conduttori. Sì. E questo volevo dirlo, ripeto, Sky, io sono abbonato Sky, ma non si è ritrovato che... di più con i vecchi schemi, con le vecchie voci, con anche se una programmazione a scartamento ridotto rispetto a quella di Sky, dove si poteva vedere qualunque cosa dalla prima freccia fino a quella d'oro, dal primo sparo fino all'ultimo, dalla batteria, dalla prima delle batterie fino alla finale dei 100 metri. Anch'io ero dell'idea prima dell'Olimpiade che la programmazione comunque Rai fosse sufficiente ad esaudire le richieste. Resto convinto del fatto che ormai sia del tutto anacronistica la collocazione temporale dell'Olimpiade in un mese in cui la gente, la televisione, la guarda poco, anche se c'è l'Olimpiade. Questo è un mio pensiero. Grazie Paolo. Mimmo Agrigento. Sì, vi ringrazio. Poco fa avevo telefonato. Sì, vi faccio ancora sempre i complimenti perché è un impegno fisso. Come vengo dal lavoro, subito accendo ogni giorno. Benissimo. E noi l'aspettiamo, è convocato tutte le volte che vuole. C'è chi manda un messaggio e dice: disdico Sky perché di questi tempi la Spagna è il calcio, Messi è Messi, Ronaldo è Ronaldo. È come in un torneo di tennis se non fanno vedere le partite tra Nadal e Federer, lo scrive Fabrizio da Modena. Le consiglio di aspettare un attimo perché le notizie che riportava prima di Pollina sono giunte alle orecchie anche a me, quindi Sky sta ancora trattando sui diritti della Liga e la sensazione è che alla fine sto Barcellona-Real Madrid, oltre a tutte le altre partite sugli schermi di Sky, si vedrà. Dove andiamo? Leonardo, provincia di Monza. Sì, pronto? Eccoci. Quanto silenzio c'è, sì, stasera. Innanzitutto dica. Volevo fare i complimenti per la trasmissione. Grazie. Tifosissimo EA7, quest'anno ho avviato la mia piccolina al forum, dopo aver portato quella grande, la domanda è questa, per cui parliamo di basket chiaramente, la domanda è questa, dopo aver visto ieri sera Siena su Sport Italia, dico, quest'anno la mia Milano ce la farà? Ce la dobbiamo fare, perché se non ce la facciamo ci sarà un solo ed unico colpevole, Sergio Scariolo. Allora si è dato la risposta da solo, che non so se sia corretta. La domanda, l'Emporio Armani, Milano, l'Olimpia Milano ce la farà? Beh, quest'anno è la grande favorita per lo scudetto. Io credo che abbia lavorato molto bene sul mercato estivo, credo che abbia costruito una squadra competitiva. Siena si è rifatta completamente il lifting. Credo però che sarà un duello tutt'altro che facile per la Milano dei Canestri, ma tanto tra poco si comincia a giocare, quindi qualcosa scopriremo subito. E poi chi c'è? 800240024 numero verde, c'è, e allora ve lo faccio sentire, c'è il tormentone della settimana che è iniziato a questi microfoni con lunedì, con le dichiarazioni di Gianluca Vialli. Zeman secondo me è una persona molto molto intelligente, è anche un grandissimo paraculo. Ecco, è iniziato tutto così, poi putiferio, risposte che devono ancora arrivare da Zeman, ma arriveranno in conferenza stampa io credo, perché sarà la domanda più gettonata, e anche un bello scherzo di Radio Rai che vi facciamo ascoltare, di Gianfranco Butinar, sentite. Mister Zeman, buongiorno. Maestro, buongiorno. Come va? Va bene, credo che io, leggendo quello che era di articolo di giornale, credo che volevo chiarire qual era il vantaggio che io ho avuto da problema di polemica, di battaglie, visto che allenavo Avellino, allenato Foggia. In che senso vuole sapere qual è il vantaggio? Ma io, leggendo oggi giornale, chiedo che io mi si parla di quello che sono state delle polemiche fatte apposta, strumentalizzate per avere vantaggi, non so da che cosa, da chi, visto che io non ho allenato più, oppure ho allenato Avellino Foggia. No, io non ho parlato di vantaggi, io ho detto che lei cavalca soltanto le battaglie che le fanno comodo, le altre se le dimentica. Avrei voluto dire anche delle altre cose, ma poi mi sono un po' trattenuto. Peccato, lo richiamiamo Vialli, sei un po' trattenuto, lo richiameremo presto Gianluca Vialli, ve lo prometto. Riccardo da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io la mia è una curiosità. Sì. Io sono un tifoso juventino, lo sarò sempre, però devo dire che la Juventus... La squadra non si cambia, no? Lei mi insegna, lo sarà sempre per forza. Vuole mica sì, cambia certo, squadra. Però... Allora. Con la vicenda del Piero ha perso dei punti la Juventus, cioè io non riesco a capacitarmi del perché. Un giocatore che ha dato tutto a questa squadra, ha ricevuto anche tanto, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, sia stato liquidato in questo modo. Cioè non riesco assolutamente a capacitarmi della cosa. Se ne faccio una ragione, Riccardo, non c'è una risposta, almeno una risposta che abbiamo in tasca. Passano anche i giocatori, passano le bandiere, poi sono d'accordo con lei che c'è modo e modo, e il modo utilizzato non è stato il più elegante possibile. Però per quanto tempo ne parleremo ancora? Ormai insomma Del Piero ha trovato casa in un posto meraviglioso, la Juventus è una squadra altamente competitiva almeno in Italia, prima o poi bisognerà anche farsene una ragione, io credo. Davide, Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno. Io sono abbonato Sky, ex abbonato Mediaset Premium. Sì, abbonato un po' a tutto. Ho fatto tutto, escalation credo di costi e mi viene da dire anche di qualità. Ho una domanda a cui non riesco a darmi una risposta. Ah. La Rai, che è TV di Stato e da cui contribuiamo tutti noi abbonati con questa tassa di cui tanto si è parlato in questi anni. Come fa e perché, per scelta, per necessità, per cosa, a perdere tutti i diritti a fronte di televisioni che possono essere Sky o Mediaset Premium, che si autofinanziano con pubblicità o quant'altro, che anche la Rai continua a trasmettere? Sì, evidentemente non ha potenzialità o forse non ha la volontà di partecipare ad una battaglia che costa davvero molti soldi. O forse chi guida la Rai in questo momento non ritiene lo sport una parte essenziale, il core business del prodotto. Poi ci si rifà sul canone, ma il canone lo paghiamo, eccetera, eccetera. Sì, è vero, però dobbiamo anche, secondo me, modificare un po' la nostra prospettiva. Non è così scontato che nel mondo di oggi, nel 2012, ma questo è un discorso che vale in tutto il mondo, lo sport debba essere per forza offerto gratuitamente dal servizio pubblico. Se lo sport, anche altrove, chi vuol vedere lo sport lo paga. Perché? Perché è un mercato molto, molto costoso, sul quale le emittenti di Stato spesso non hanno la possibilità o la volontà, ripeto, di intervenire e di partecipare. Saluto e ringrazio invece il mio amico Roberto Ungaro, direttore di Riders, per cambiare argomento. Ciao Roberto. Ciao Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Anche il mercato del moto mondiale, della superbike, sta vivendo un momento strano, mercato televisivo intendo. Sì, anche perché sai che l'anno prossimo ovviamente Mediaset, quindi si cambia. C'è ancora un punto di domanda riguardo la MotoGP, perché dal 2014 passerà di là a Sky, però ci sono voci che dicono magari anche dall'anno prossimo, ma non è ancora stato ufficializzato niente, è ancora presto, però mercato in grande fermento. Parlando di mercato, invece, notizia di pochi minuti fa, Misano, Ducati ha ufficializzato lo Junior Team, quindi team con cui correrà Ben Spies, fuoriuscito da Yamaha, e il nostro Andrea Iannone, che nei test al Mugello ha girato più forte di Valentino. Non vuole niente, magari condizioni diverse, sono sempre test privati interni, però diciamo che ha fatto una bellissima figura, ha convinto, e quindi si è guadagnato dalla MotoGP, dalla Moto2 alla MotoGP. Senti Roberto, weekend che ci aspetta, io l'ho definito prima triste, qualcuno mi ha corretto via SMS in tempo reale. Ovviamente sarà il weekend del ricordo di Simoncelli. Tu come lo vivrai, con tristezza oppure no? Ma io voglio viverlo con tristezza. Beh, c'è da dire innanzitutto che c'è un bruttissimo tempo oggi, una pedalata è stata annullata, il ricordo proprio del SIC, ci sono tante però attività. il mio ricordo lo porto dentro e è bene che se ne parli di lui, ed è rimasto in tanti modi. Secondo me comunque il moto ha fatto vedere tanto per ricordarci di lui. Secondo me però devo anche dirlo questo, tanti ne hanno parlato fin troppo, cioè se ne è parlato tanto fin troppo e qualcheduno se ne è un po' approfittato. Sì, io sì, questo devo dirlo, me lo sento, e quindi io quando sto in silenzio non lo sono, non perché non voglio ricordarlo, io dentro ce l'ho e so chi era, cos'era quel ragazzo. Ho fatto un lavoro stupendo con il mio giornale ed è stata una persona meravigliosa, però vedere tutto questo interessamento anche da parte di persone che non mi fa bene, questo devo essere sincero, non mi fa bene. Sono d'accordissimo, Roberto. E noi torniamo subito per ancora un quarto d'ora circa per chiedere a Roberto Ungaro e far felici i molti ascoltatori che da tutta la settimana mi stanno trapanando il cervello via SMS per parlare, ma non che non lo volessi fare, volevo farlo in una certa maniera, che è questa, di quanto ha combinato Cairoli, sesto titolo nel motocross. Quanto vale, Roberto Ungaro, questo risultato? Vale tantissimo, perché è il mondiale della maturità, lui lo ha gestito, l'ha saputo amministrare e conferma che questo ragazzo siciliano, e quando dico siciliano vorrei far pensare magari i non addetti al settore, pensate cosa vuol dire per un ragazzo siciliano dover conquistare prima di tutto il regionale, ma l'italiano, a affermarsi a livello nazionale. Ogni gara vuol dire una trasferta, portandosi a moto, quindi un traghetto, doppia fatica, e questo gli ha veramente fatto tanto amore. È il titolo da maturità e conferma che lui è in grado di raggiungere l'unico nella storia del motocross ad aver vinto 10 titoli, e quindi il figlio, cioè Stefan Evers, il figlio di Henry Evers, e quindi è sulla buona strada, perché è relativamente giovane, 27 anni, è relativamente fresco, quindi non si è mai fatto male in modo importante, e lui ha fatto la sua scelta. Sapete che i crossisti, quando emergono, ci sono due mondi cross, quello, il mondiale vero, quello che ha vinto lui, che si svolge comunque prevalentemente in Europa, e poi c'è il mondo americano del cross. Bene, lui ha le idee chiare in testa, ha fatto la sua scelta e vuole raggiungere questa meta, cioè arrivare a 10 titoli e addirittura sorpassarli, questi 10 titoli. Può farlo, è nelle sue possibilità questo, mentre invece tanti si perdono in America, perché lì è una tipologia diversa di motocross, non c'entra niente, le piste, il modo di allenarsi è completamente diverso. Quindi io devo dire che noi dobbiamo essere orgogliosi di questo ragazzo, che ha ancora tanta fame, questa fame gli consentirà di arrivare lontano. Bellissima persona, splendida, è rimasto coi piedi per terra, nonostante sia un 6 volte campione del mondo. Era debole sui terreni pesanti, quelli tipici del nord Europa, la sabbia, dove è la storia del motocross. Bene, lui è andato a vivere da parecchie stagioni, si è trasferito là per imparare ad essere lì. Adesso è imbattibile anche lì, quindi è completo. Io sono felice perché lui porta in alto il motocross, che è una disciplina purtroppo di cui se ne parla molto poco. Altro aspetto interessante, nel motocross l'uomo vale molto molto di più rispetto alla macchina, rispetto alle altre discipline motociclistiche. Questo perché? Perché è uno sport di enorme fatica, e questo lo sappiamo, ma perché nel motocross non c'è elettronica, la tecnologia può arrivare fino a un certo punto, non c'è un tracciato asfaltato, un'aderenza costante e sempre quella traiettoria, cioè non si può esasperare, provare sempre quella dinamica e quindi intervenire con la tecnologia. Lì l'aderenza è precaria, conta l'uomo, non tanto per la fatica, ma proprio la componente umana che prevale sul mezzo meccanico. Riders Ferry. Esatto, e quindi questo lo fa ancora più grande, cioè Tony Cairoli è qualcosa di inimmaginabile. Pensiamo a Valentino, se vogliamo fare un paragone, ne ha vinte ancora di più, poi Valentino ha una capacità di comunicare che è un altro pianeta, però Tony Cairoli è qualcosa di cui veramente esserne fiero. Grazie Roberto, grazie direttore. Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie Roberto Ungaro. Adesso vado a manetta anch'io con gli ascoltatori, Daniele da Fermo, Maurizio da Udine, Marcello da Roma, poi dobbiamo parlare anche di Champions League che oggi è stata presentata a Milano, abbiamo la Dario Ricci. Daniele, dica. Sì, ciao a tutti, ciao. Io volevo parlare del rapporto dello sport con la TV, che tante volte vanno a braccetto, tante volte meno, e dicevo che io la penso così, penso che i diritti di cielo non bisogna vedere come li utilizzeranno. Per me, per mio zio, mio nonno, il fratello di mio nonno non cambierà niente, perché tanto cielo, nemmeno sanno che sta sul canale 26 del digitale terrestre. Come per lei, suo nonno, fratello di suo nonno, penso che valga anche per molti che questo quarto d'ora. Sì, ma questo quarto d'ora è più che altro uno schiaffo morale alla RAI, ma credo non. È uno non schiaffo farà morale alcuna RAI differenza. Che non ha saputo, secondo me, mai valorizzare i diritti che aveva, perché l'unica volta che ha utilizzato i diritti, quelli veri, quelli che vanno dalle 3 alle 6, è quando hanno fatto 2 anni fa per i 50 anni di tutto il calcio minuto per minuto su Rai News, addirittura, nemmeno su Rai Sport, hanno fatto quella bellissima cosa che fanno, per esempio, in Inghilterra. Io ho vissuto anni in Inghilterra e la fanno sempre, e la diretta video dagli stadi dei radiocronisti ripresi con la telecamera e con una specie di diretta gol alla radio. Sì, certo, quello molto bello, molto, molto bello, però insomma la gente adesso vuole vedere li guarda una volta i radiocronisti, poi vuole vedere il calcio, e il calcio è su Sky e il calcio si paga. Grazie Maurizio. Buongiorno. Senta, volevo riallacciarmi alla polemica tra Zeman e Vialli, no? Mi ricordo quel periodo, quando facevamo i corsi con Velasco, ex allenatore nazionale, pallavolo, parlava che accrescimenti fisici di 6-7 kg di muscolo erano molto sospetti. Sì. No? E si parlava già di doping di quel genere quella volta lì. E infatti Zeman a volte aveva tirato fuori quei casi, mi ricordo bene, per quelle cose lì, insomma. La storia è questa, sappiamo che c'è stato un processo, sappiamo anche come è finito, si è tirata fuori anche la cosa dell'eritropoietina, quella invece non è mai stata dimostrata, mi sembra anche una polemica abbastanza vecchia e abbastanza in retroguardia, se volete sapere la verità. Marcello, Roma, buongiorno. Buongiorno, sono stato anticipato un po' dall'ascoltatore di prima, però io volevo esprimere un parere, cioè insomma da una settimana ormai si parla di Zeman come un paraculo, perché Vialli ha espresso questo suo parere, però secondo me per par condicio sarebbe giusto anche magari ritrasmettere per trasmissione, visto che la sua è una trasmissione molto seria, anche la testimonianza di Vialli nel processo di Torino. Che secondo me è esemplificativa di quello che in quel periodo succedeva. Sì, la ricordo. Se vuole la ripescheremo nei prossimi giorni, perché non c'è problema. Però il discorso è che, come ricordava l'ascoltatore di prima, ci sono stati anni in cui lo sport viveva di sospetti, ma non solo la Juventus, non solo il calcio, ma qualunque tipo di disciplina. E ancora oggi io vedo dei fisici che in vari sport, compreso il rugby, che di umano non hanno poi moltissimo. Adesso è il momento della Champions League. I numeri della Champions. Oggi per questa rubrica abbiamo Dario Ricci, che sta abbracciando la Champions League. Magari Carlo, perché non si può toccare la Coppa. Dov'è? È qui in Piazza Duomo, la musichetta della Champions risuona qui in piazza a Milano, in Piazza Duomo, prima tappa proprio dello UEFA Champions League Trophy Tour, presentato da Unicredit questa mattina. Ho provato a avvicinarmi alla Coppa dalle grandi orecchie, però la sicurezza mi ha detto vicino sì, foto si può fare, toccarla no, quello sarà onore che toccherà al capitano che la solleverà al cielo quest'anno nella finale di Wembley, e che è anche capitato tra l'altro ai due campionissimi oggi ospiti qui a Milano a inaugurare il tour, Luis Figo e Ruud Gullit. Par condicio Milan interista. Assolutamente sì, anche un tuffone nei ricordi, perché Luis Figo ha sollevato quella coppa, lo ricordiamo, nel 2002 con la maglia del Real Madrid in quella finale di Glasgow segnata dal 2-1 sul Bayer Leverkusen e da quel gol leggendario di Zinedine Zidane. Ruud Gullit l'ha vinta 2 volte col Milan, che tra l'altro è l'ultima squadra, vale la pena ricordarlo Carlo, che è riuscita a far doppietta proprio con negli anni nella quella magica squadra di Gullit e Van Basten. Steaua da allora, Barcellona e poi l'anno dopo a Vienna contro il Benfica, gol di Rijkaard. Grazie Dario. Grazie a voi. Alla prossima, prova a vedere se riesce a toccarla quella Champions. I numeri della Champions. In collaborazione con Unicredit. E tra poco comincia la rubrica che ci accompagnerà per un po' questa, mentre io finisco qui, chiudo qui questa puntata di Tutti Convocati, ma siete riconvocati anche domani alle 14, tutti presenti, Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti.